come si intrecciano le diverse culture in questa mostra? C'è questa dicotomia, diciamo, di biodiversità, di coesistenza, di biodiversità, cioè di voglia di tornare all'origine e omogeneità. E è un dilemma che è lasciato aperto nella mostra, per cui questa è un'immagine visiva, cioè è da vedere, è da percepire, ognuno se l'assorbe, se la deve assorbire e diciamo riconoscerci, cioè riuscire a intravedere queste omogeneità o diversità. Abbiamo associato, diciamo, la sinergia, diciamo, di diverse aziende, per cui c'è una prima sinergia fra le aziende, poi c'è un passaggio fra le aziende e l'architettura, che, come dice qualcuno, l'architettura è niente meno che musica cristallizzata, per cui abbiamo la parte cristallizzata che è quella delle aziende e la parte direttore d'orchestra che è l'architetto, per cui è stato associato la dimensione artistica che è quella dell'architetto alla dimensione produttiva che è quella dell'azienda. E tutta l'anima, diciamo, della mostra è svolta su questo doppio gioco. Ecco. È un po' percepito come gioco, come evento culturale, cioè il fatto di portare degli architetti che hanno una dimensione, porta una dimensione culturale nel campo dell'industria.